a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Nuovo appuntamento con A Regola d'Arte, bentrovati da Francesco Galante. Come sapete è l'appuntamento del sabato che ci racconta il mondo dell'UPA, dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Con noi oggi al telefono abbiamo Andrea Rosin, presidente del sistema legno dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Benvenuto. Grazie. Allora, intanto, signor Andrea, volevo chiederle cos'è il sistema legno, che cosa si intende? Praticamente la categoria legno è un comparto dove comprende sia il settore dell'arredo e di mobili e quant'altro, e sia il materiale utilizzato per l'edilizia, quindi serramento o scremature solari sull'abitazione. Ho capito, quindi insomma una certa parte dell'edilizia insomma per le nostre case e anche la parte dell'artigianato dei mobili, no? Quindi certo. Assolutamente un settore importante che ha avuto dei problemi con la crisi dell'edilizia effettivamente. Sì, si spera sempre in una ripresa, si spera sempre di portarci praticamente nel rievocare la storia e di ritornare praticamente a lavorare in maniera molto più costante, con un attimo più di prospettiva. Certo, sono cambiate anche negli ultimi anni un po' la tipologia, se una volta si costruiva sul nuovo, adesso forse c'è molto più lavoro con i rifacimenti delle case. Certo, la riqualificazione oggigiorno è il sistema trainante del nostro lavoro. E c'è una cosa che molti sanno, insomma è già qualche anno che capita, c'è il famoso eco bonus, cioè la possibilità di avere delle detrazioni se si va a ristrutturare la casa o a migliorarla in alcuni versi. Gli interventi hanno delle agevolazioni fiscali. Parliamo di questo soprattutto perché questo credo abbia dato una spinta al settore, sicuramente le detrazioni. E allora sarebbe bello spiegare un po' agli ascoltatori di Blu Radio Veneto quali sono queste detrazioni e chi può usufruirne. Praticamente le detrazioni si dividono in due parti. Uno che è il 65% praticamente della spesa effettuata per la riqualificazione energetica, quindi tutto quello che viene trattato per riportare una dispersione termica inferiore dell'abitazione, dell'immobile o casa, e viene praticamente detratto dalla spesa tramite l'IRPEF del 65%. Per quanto riguarda invece il 50% è riguardante la ristrutturazione, si può accedere con l'IVA agevolata al 10%, come 65% che ho indicato prima, previa una denuncia in comune con una DIA o una SCIA per la ristrutturazione praticamente dell'abitazione. In quel caso potrebbe rientrare tranquillamente anche il bonus mobili, sarebbe per tornare al discorso anche dell'arredo. Sì. E quello viene fatto con il 50%, oppure il risanamento o restauro conservativo. Sì. Quindi se io vado per esempio a cambiare gli infissi perché ho ancora le vecchie finestre con il vetro singolo e via dicendo, quelle spese le posso detrarre il 65% in 10 anni, tramite la dichiarazione dei redditi. Mentre allora se io per esempio faccio gli infissi, posso anche usufruire sistematicamente e comprarmi anche dei mobili nuovi e avere il 50% su quelli, oppure no? No, in quel caso, siccome il 65% riguarda proprio l'involucro casa, sì, che nel caso nostro riguarda specificamente gli infissi, però nel caso dell'utente finale potrebbe riguardare il cappotto, il tetto sì, o quello praticamente sono tutte le manutenzioni per migliorare a livello termico praticamente l'abitazione. Certo. Mentre il 50%, quindi se voglio sostituire dei mobili viene fatto principalmente per che motivo? Ok, nel momento in cui io vado a fare una ristrutturazione, denuncio in comune, quindi faccio un avvio, una scia e quant'altro, viene fatta una ristrutturazione, in quel caso lì il bonus mobili viene compreso, ok, sistemo il tutto, sostituisco anche l'arredo interno. Ho capito, quindi magari sposto un muro o ne tolgo uno, quindi mi cambiano la casa, ho bisogno di mobili nuovi e quindi posso usufruire sui mobili del 50%. Certo. Questo è interessante. E quindi questa possibilità c'è ancora fino al 31 dicembre del 2016, sì. Poi bisognerà vedere speriamo venga rinnovata vivamente per poter continuare a lavorare in questo sistema. E voi come associazione avete fatto qualche richiesta o queste cose ci siamo arrivano un po' dall'alto, come dire, ci vengono... Noi facciamo un po' di leva. Logico, la decisione finale viene sempre dall'alto. Da parte nostra cerchiamo di far capire l'importanza di queste detrazioni a chi ci governa e appunto capire che è una cosa, voglio dire, necessaria, però molto molto utile per poter proseguire. E come associazione ci stiamo muovendo anche per creare da parte degli artigiani competenti, a cui abbiamo legato un marchio, il marchio CQ Casa di Qualità. All'interno di questo marchio noi possiamo trovare tutte le aziende che rientrano entro certi parametri, sia in termini di lavoro sia in termini di esecuzione, a regola d'arte come deve essere fatto, per poter dare un prodotto di qualità all'utente finale senza magari andare allontanando. Si può trovare all'interno di questo gruppo una selezione. Questo è un altro punto sulla quale l'associazione sta puntando, creare degli artigiani di qualità. Ecco, praticamente credo che il singolo cittadino, il privato che voglia appunto migliorare energeticamente la situazione della propria abitazione oppure deve fare una ristrutturazione, si rivolge a voi artigiani e voi siete già in grado di dare tutti i consigli anche per le carte, per la burocrazia che c'è da seguire per ottenere poi le detrazioni. Certo, noi praticamente possiamo sia fornire sia la documentazione nel caso del 65%, perché il 50% segue una vita a sé, sì. E il 65% richiede una dichiarazione all'Enea tramite la registrazione sul loro portale, con l'inserimento di dati dell'abitazione, il miglioramento che è stato fatto, i valori termici nuovi, le prestazioni termiche che vengono realizzate, e da lì praticamente si fornisce la documentazione completa. Certo, e poi diventa tutto abbastanza facile, bisogna solo ricordarsi di mettere le spese nel 7.30 quando si fa la dichiarazione dei redditi. Quella è la cosa a carico dell'utente finale. Certamente, e per il resto ci pensate voi. Quindi mi sembra di capire che questa possibilità di detrarre ha aiutato moltissimo il settore che era un po' in sofferenza, la speranza è appunto che venga riproposta. Se non ricordo male, vado un po' a memoria, forse sbaglio, una volta era addirittura il 70%, o sbaglio? No, una volta era il 50%, 50. Però il 55%. Però veniva detratto e praticamente ha portato a termine anche in 5 anni. Ah, in un tempo più corto. In un tempo più breve. Forse anche l'accorciamento dei tempi potrebbe aiutare ancora di più la scelta del finale di fare questo tipo di detrazione. Perché i 10 anni sono cose così, magari sono più sensazioni, fanno un po' paura, dice ok, tra 10 anni dove sono, cosa faccio? Sì. Se magari si riuscisse ad accorciare qualcosina, anche quello sarebbe un aiuto, una spinta in più, però piuttosto di toglierlo, meglio lasciare i 10 anni. Certo, sicuramente, anche perché poi ricordiamo per esempio che a livello di spese energetiche una casa incide molto sul portafoglio del proprietario, quindi facendo due conti alla fine nel lungo tempo assolutamente i soldi si recuperano tutti e forse ne vale assolutamente la pena. Credo che abbiamo dato un aiuto e un'idea su questo ecobonus 2016 che ricordo terminerà il 31 dicembre di quest'anno.

assistenza e atti societari ed imprese familiari, dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP e tributi locali, formulari diretti all'amministrazione, assistenza e tutela nelle verifiche, nei controlli, negli accertamenti e applicazioni degli studi di settore. Per informazioni chiamate il Servizio Tributario Provinciale di Padova allo 049 82 06 417. Termina così anche un'altra puntata di A Regola d'Arte. Vi ricordo che se volete qualsiasi tipo di informazione per quanto riguarda l'Unione Provinciale Artigiani, vi conviene cercarla in internet. L'indirizzo è www.upa.padova.it. A Regola d'Arte ritorna la settimana prossima, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Francesco Galante. Avete ascoltato? A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.